Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Per coloro i quali non ci ascoltano di prima mattina, ricordo che è possibile scaricare le puntate sul sito di Radio 24. Basta andare nell'archivio della mia trasmissione e quotidianamente potete scaricare ed ascoltare in podcast tutte le puntate che volete. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore, oppure lo trovate attraverso un motore di ricerca, e lì scoprirete che alcune settimane fa ho parlato di un caso abbastanza curioso di cui dibatteremo oggi. Riguarda la regione Calabria. Voi sapete che questa regione è alle prese con un drammatico deficit sanitario, addirittura difficilissimo da quantificare, che corre il rischio di mangiare e divorare le risorse stesse di questa regione. Ebbene, mentre questo accade, l'azienda sanitaria ospedaliera di Cosenza, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, ASP 5, raggiunge in pieno agosto un accordo o un preaccordo, ora cercheremo di capirlo, con le case di cura private rappresentate dall'AIOP per ottenere i crediti vantati in un periodo che va dal 2000 al 2007, comunque un ampio periodo di tempo. In questi crediti, tra questi crediti, ci sono anche quelli extra budget, vale a dire quelli che sono stati oggetto di uno sforamento. Ebbene, nel 2006 il Consiglio di Stato, con una sentenza, una decisione in adunanza plenaria, ha detto no, questi debiti non vanno pagati, mentre invece l'accordo sembrerebbe riconoscere, un accordo che chiama in causa anche supposte perizie, supposti avvalamenti da parte di un professore universitario delle più famose in Italia, docente di diritto amministrativo all'Università di Messina. Per parlare di questo noi abbiamo chiamato numerosi ospiti e cominciamo oggi a parlarne, dunque, di questo caso bizzarro e curioso, perché se fosse illegittimo l'accordo raggiunto, insomma, è qualcosa che non va nelle trattative tra pubblico e privato. C'è, se fosse legittima, aprirebbe invece la stura ad una serie di riconoscimenti che soltanto in Calabria sono nell'ordine dei 200 milioni di euro. Innanzitutto ringrazio e saluto l'avvocato Enzo Paolini, che è proprio il presidente delle case di cura private dell'ospedalità privata l'AIOP in tutta Italia. Buongiorno avvocato Paolini. Buongiorno. E saluto e ringrazio per il suo intervento il professor Carlo Mazzù, docente di diritto amministrativo all'Università di Messina ed ex consulente della Regione Calabria dell'assessorato alla sanità. Buongiorno professor Mazzù. Buongiorno, per l'esattezza sono professore di diritto privato. Di diritto privato, chiedo scusa ma non si è offeso, no? Non è che mi querela per questo, no? No. Ah, benissimo, perfetto. Allora, partiamo da lei, avvocato Paolini. Allora, lei dice questo accordo c'è tutto, noi dovevamo avere, noi come ospedalità privata ovviamente, dovevamo avere questi soldi, compreso ciò che è stato riconosciuto extra budget. La prego di correggermi in ciò che ho sbagliato e di esporre le sue ragioni. Certo, la correggo subito perché non è... La sua presentazione contiene alcune inesattezze. Prego. Innanzitutto la sentenza del Consiglio di Stato non dice quella che immagino sia riferita anche dall'assessore Lomoro, dall'onorevole Lomoro nell'intervista all'Espresso, sia la sentenza dell'adunanza plenaria numero 8 del 2006, non dice che non sono riconoscibili le prestazioni extra budget. Non poteva dirlo perché in realtà le leggi dello Stato, il decreto legislativo 502 del 92 e i contratti stipulati poi in virtù di questa normativa prevedono espressamente il riconoscimento delle prestazioni extra budget, sia pure con un meccanismo di abbattimento tariffario volto a riportare l'importo dovuto alle strutture pubbliche e alle strutture private nell'ambito del fondo sanitario fissato dalla regione. Allora la interrompo un attimo. Naturale, morale, normalissima. Avvocato, scusi, la interrompo soltanto un secondo per dirle che non mi sono sbagliato, non è un'esattezza, la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato è esattamente quella a cui fa riferimento, la 8 allora del 2006, secondo la quale per molti, poi sentiremo, ed è per questo che è stato oggetto anche di una interpellanza parlamentare, proprio questo direbbe quella decisione. Però giustamente lei sta esponendo invece le sue opinioni, dice non è vero che dica i debiti extra budget non possono essere, ecco, pagati. La sentenza della Corte del Consiglio di Stato dice che in assenza di contratto gli erogatori privati possono far riferimento, devono far riferimento all'importo fissato nell'anno precedente, che è cosa diversa. Ma immagino che qua in questa trasmissione non siamo qua per fare le cause, naturalmente. Stiamo dicendo se è lecito o non lecito un accordo transattivo sulla base di un contenzioso in essere. Naturalmente l'accordo transattivo deve trovare l'incontro della volontà delle parti e l'avallo della Regione, e questo avverrà. Se non dovesse avvenire, proseguiranno i contenziosi e i tribunali dello Stato decideranno. Benissimo. Se avevamo ragione noi o non avevamo ragione. Benissimo. Noi. È molto corretto quello che lei espone, vorrei farle un'altra domanda. Lei ha letto sul verbale che è stato richiamato anche un parere del professor Mazzù che avvalerebbe questa scelta, cioè tra i visto e considerato che, come lei sa, fanno parte di tutti i verbali, le leggi italiane, atti e documenti amministrativi, si dice anche il professor Mazzù, io lo sintetizzo in soldoni, la pensa come noi e quindi abbiamo anche un autorevole giudizio. È così o non è così, avvocato Paolini? Sì, che il professor Mazzù la pensi come voi, e quindi prendo atto che anche Radio 24 ritiene questo senza conoscere bene le carte, che il professor Mazzù la pensi come voi è una cosa assolutamente conosciuta, la ritengo, la rispetto fortemente. Scusi, come anche... voi, scusi avvocato, ma come voi chi? Lei ha detto come noi. No. Guardi, io credo di esprimermi abbastanza bene in italiano, però ci riprovo. Allora, nel verbale che è stato sottoscritto dalle parti si richiama ad un certo punto tra i visto e considerato che anche un parere del professor Mazzù che avvalerebbe la scelta di transigere, confermo, quindi di effettuare la transazione, non come diciamo noi di Radio 24, perché io non sposo né Tizio né Caio né Sempronio, sposo, confermo, l'informazione. E aggiungo una cosa, che prego, non è un parere del professore Mazzù, bene, è una transazione redatta di pugno dal professore Mazzù. Benissimo, benissimo, quindi come vede io come Radio 24 non c'entro assolutamente nulla, chiamo in causa gli atti. Benissimo, quindi io riassumo, avvocato Paolini, mi corregge, mi raccomando. La transazione è legittima, la adunanza del Consiglio di Stato non dice quello, è giusto quindi ottenere anche una parte di credito o debito, a seconda di che parte la si veda, sì, extra budget, abbattuto per una sua parte. È così, sì, avvocato? È così. Benissimo. E aggiungo naturalmente che questa procedura è esattamente analoga a quella già seguita con una transazione redatta di pugno del professore Mazzù, che io naturalmente ho in copia, e che all'epoca dell'assessorato dell'onorevole Lomoro era stata sollecitata e raggiunta dalle parti. Benissimo, benissimo. Abbiamo la fortuna di avere, la fortuna ovviamente è stata una cosa assolutamente cercata e voluta, il professor Mazzù, che quindi ha il modo di dire innanzitutto se a suo parere questa transazione è legittima, ma mi pare che si sia già espresso con forza sul mio blog su questo, e secondariamente se è vero che lui di suo pugno ha detto prego, si può andare avanti così. Professor Mazzù, a lei la parola. Grazie, intanto vorrei fare una precisazione storica. Io ho fatto esclusivamente da amanuense, assistendo a riunioni tra i dirigenti delle ASL e i dirigenti dell'AIOP per redigere una proposta di transazione che era subordinata all'accordo e all'approvazione delle ASL e della Regione. Questa approvazione non è mai intervenuta, quindi nessuna transazione si è mai perfezionata. Ma qui parliamo di due cose distinte e separate. Quella era una vicenda del 2006, rispetto alla quale, quando venne pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, immediatamente io ho avvertito l'assessorato che era venuto meno il requisito di base della transazione, e cioè l'incertezza sulla dovutezza delle somme, e quindi a quel punto non si poteva più transigere, dal momento che il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, chiamato a decidere proprio perché c'erano contrasti nella giurisprudenza, aveva detto senza mezzi termini che le aziende erano tenute a rispettare i contratti anche se stipulati in ritardo, perché poi questo era il motivo per il quale si creava l'extra budget. Quindi questo è il punto. E siccome era l'oggetto di gran parte delle contestazioni, io ho immediatamente scritto alla Regione, la quale subito dopo ha diramato una circolare del direttore generale bloccando tutti i procedimenti e da lì si è fermata la trattativa. Quindi ricapitolando, scusi, prego. È importante questo passaggio. Prego. Trattativa che non si è mai perfezionata. Tanto è vero che le stesse aziende hanno resistito all'iniziativa giudiziaria delle case di cure per ottenere il pagamento di quelle somme, e il motivo della mia sorpresa è dato dal fatto che mentre aziende ricomprese nell'attuale azienda sanitaria provinciale di Cosenza mi hanno dato incarico di assisterle proprio per sostenere che nessuna transazione si era perfezionata, oggi si fa una proposta di transazione richiamando un documento come se quella transazione si fosse perfezionata, allora, che non è assolutamente vero. Allora, io direi che qui siamo di fronte ad una situazione kafkiana, veramente assurda. Se fosse vero, ma io non ne dubito, quello che dice il professor Mazzucchi, che con una parte, con una mano l'ASPE chiede di resistere in giudizio e con l'altra l'ASPE invece giunge ad un accordo su questi famosi debiti o crediti extra budget, ripetiamo, in tutta la gabbia 200 milioni di euro. Allora, abbiamo sentito le due parti che la pensano in maniera esattamente opposta, vale a dire l'avvocato Enzo Paolini dice quella transazione è legittima, laddove invece il professor Mazzù dice era solo una bozza, non si è mai perfezionata, non si doveva transigere. Allora, è così, avvocato Paolini? Mi auguro che il professore Mazzù sia stato retribuito dall'assessorato come amanuense e non come consulente. Allora, aspetti Paolini, la fermo un secondo, perché a questo punto la cosa è interessante, quindi ci fermiamo. Io saluto tutti i radioascoltatori, saluto ovviamente Laura Faggini in studio e Pietro Lacorte in regia, e la richiamo domani per una nuova puntata. Ci sentiamo quindi, cari radioascoltatori, a domani proseguiamo con questo interessantissimo dibattito. Buona giornata a tutti.